Siete all'ascolto di Easy Rider. Non torniamo indietro più, parole che chi segue Easy Rider da sempre conosce, dovrebbe quantomeno conoscere a menadito, visto che questo era il mio turno e quindi io sto facendo un Easy Rider best of dal 2002 in poi. Ecco, questo è sicuramente un brano con il quale ho esordito mettendo il piede per la prima volta qui, quando mi invitò il mitico DJ Ariele nel lontano maggio del 2002, appunto, e il discorso verteva proprio su una puntata concept sul punk italiano, e c'erano anche loro, Decibel, con questo giovane Enrico Ruggeri d'Assalto e la mitica Figli di, che era proprio il brano di apertura di uno dei dischi, lo dico per Filippo che sa bene di cosa parlo, visto che bazzica anche lui le convention del disco della collezione. È un disco che ha un valore incommensurabile in virtù non solo della sua tiratura limitata, ma anche del fatto che fu venduto molto poco nel 78 questo disco, per cui è diventato raro e poi Ruggeri è diventato famoso e quindi il disco è diventato collector's item. E tu ce l'hai? Io ce l'ho e non solo, io lo condivido quotidianamente con milioni di persone all'ascolto. Va bene, allora io nel frattempo, allora vi avevo promesso di riprendere in mano almeno gli sms, poi le mail le leggiamo dopo. Altri saluti, Frinz78 dalla Romagna dice: bella Mox, questa sera Easy Rider al completo, complimenti per la grinta della Serena, ovviamente perché lei insomma rappresenta il lato moderno di Easy Rider. Poi chi abbiamo? Abbiamo Franco da Milano e dice: adesso mi spiego l'incomprensibile rassegnazione, spero troppo stronzi. Si parla ovviamente di chi ha determinato questa fine. Va bene, spero che lo siate quando lo dico io, il primo giugno insomma. Poi il fungo dice: riguardo Gaber, la censura c'è anche nel 2008, guardate cosa stanno facendo a Rock FM. Un attimo che prendo in mano il mouse, la gestione è un po', adesso siamo qui al caldo dello studio accogliente di Rock FM. Poi un saluto al mitico Rostone, quindi a Phil che è qua al mio fianco. Grazie. Un saluto alla redazione. Caro Rostone, l'hai portato il disco di venerdì sera? Questo è l'amico Marco di Milano. No, Marco non ce l'ho quel disco, ahimè. Devo sceglierne 5, Gengis Khan la prossima volta, dai. Va bene, Gengis Khan è il gruppo che avete gruppo visto venerdì sera dopo la Rock FM Stars Band. Esatto. Sixteen dice: uè, che pezzo, l'ho sentito per la prima volta credo d'estate su Easy Rider, magnifico. Sì, sicuramente, perché altre trasmissioni per mia fortuna non l'hanno mai avuto il coraggio. Poi il rinnegatore mi scrive una cosa molto divertente perché mi chiama Nox e quindi la cosa è assolutamente divertente. Poi prendiamo al volo in mano le mail mox@radiorockfm.com. un grande evviva a Mox e ai suoi Easy Riders, quindi i fratelli e le sorelle che sono qui al mio fianco, avete fatto uno splendido lavoro. Fausto rimanda il suo ringraziamento a tutto lo staff di Easy Rider. Ringraziate ragazzi. Grazie. E poi Andrea dice: te l'ho già detto ieri sera, hai messo Gaber con Io se fossi Dio, è una cosa che pochi sanno e possono fare. Grande Rock FM che ti permette questo. Per mia fortuna Rock FM ha permesso molto. Va bene, allora io proseguirei. Tocca di nuovo a Serena. Serena, non sento più niente. Abbiamo... Ok, aspetta, adesso dovresti esserci. Okay. Abbiamo scelto una doppietta perché è relativa a un cantante americano che ha una duplice personalità, giusto? Sì, come lui è Green Dallas ed è il singer degli Alexis on Fire, che ha formato questo gruppo, si chiamano City in the Color, canadesi, però di genere acustico. La canzone è intitolata Coming Home e la trovate anche su Rain Radio, della web radio che ascolto sempre per informarmi su queste novità, diciamo. Ecco, hai fatto bene a dirlo perché questo è un aspetto che dovremmo, appunto, nel corso della trasmissione approfondiamo. Ognuno dice un po' quelle che sono le sue fonti ispiratrici, certo. Quindi tu hai già menzionato Rain Radio, che non è in concorrenza, a parte che ormai niente è in concorrenza con noi, però non è in concorrenza perché è una web radio americana, dico bene. Sì, quindi niente. tu passi la diciamo il tempo all'ascolto tramite il tuo PC di queste radio americane e la tua informazione arriva prevalentemente da quel territorio perché è la musica che più ti esatto, piace. Esatto, è la musica che più mi piace. Infatti Rain Radio trasmette più che altro musica cristiana, però nel rock, senso che rock cristiano certo, sì, nel senso hanno testi benevoli alla fine, non è death metal, però diciamo sempre anche hardcore, post hardcore. Genere quello. Ed è il caso anche di questi City in the Color. Allora facciamo un parallelo, ascoltiamo un frammento di una canzone dei City in the Color che si chiama Coming Home, sì. E poi facciamo e sentire poi la sua formazione originale. Quindi cominciamo con City in the Color, Coming Home. Up and down to Georgia, I've seen the streets in the west, I've driven down the 90. Well, hell, I've seen America's best. I've been through the Rockies. Well, I've seen Saskatoon. I've driven down the Highway 1, just hoping that I'd see you soon. Cause I'm coming home. I'm coming home. I'm know it ain't worth shit. I've been through Nova Scotia, Sydney to Halifax, but I'll never take any pictures, 'cause I know I'll just be right back. 'Cause I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Well, I've seen a palace in London, seen a castle in Wales, but I'd rather wake up beside you and breathe that old familiar smell. I never thought you could leave me, I figured I was the one, but I understand your sadness, so I guess I should just hold my tongue. But I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, coming home, I'm coming home. Questo è uno dei linguaggi espressivi di Sere Green Dallas, abbiamo detto? Sì, Green Dallas, okay. Tante dei single degli Alexis on Fire. Perfetto, allora adesso diamo un esempio. Gli Alexis on Fire non sono ormai nell'ultimo anno, diciamo, in alta rotazione su Rock FM, lo sono stati perché è uno dei gruppi americani della nuova ondata più importanti. Sentiamolo decontestualizzato, quindi il brano scelto è Keep It On Walks. Esatto. Ti ricordi l'anno, Sere? Comunque anni 2005. 2005. Benissimo, allora il medesimo personaggio, però ricordiamo che gli Alexis on Fire hanno due vocalist, giusto? Sì, sì, uno che canta, appunto, Green Dallas, che canta sempre questo genere pulito, un po' pulito, un po' melodico, e l'altro, che di cui non so il nome, che canta un po' in growling, no? Cioè proprio un po' più hardcore. Più... Benissimo, allora abbiamo ascoltato la parte acustica, adesso ascoltiamo il gruppo vero, Alexis on Fire. The only thing cheap to do is your friend. Ecco l'altra faccia della medaglia, i grandi Alexis on Fire, che peraltro Serena, che ha scelto il pezzo essendo un'estimatrice di questo cantante e di questa band, è anche riuscita a vedere dal vivo, vero? Li hai visti l'anno scorso? Sì, al Velvet Rimini. Ah, esatto, in Romagna. Si sentiva malissimo, però non hanno... cioè non mi hanno entusiasmato. Fu una delusione dal vivo perché avevi grandi aspettative. Sì, sì, non capivo se era l'impianto, tutta la sonorizzazione oppure proprio loro, cioè mi hanno deluso, però vabbè. Però il disco rimane grande. Sì, il disco è grande. Hai scelto questo brano nell'imbarazzo generale. Nell'imbarazzo generale, non sapevo cosa scegliere, sono tutte veramente stupende. Ma okay, che anche voi lo saprete, cioè anche gli ascoltatori. Ecco, gli Alexis on Fire, io credo durante l'anno di Easy Rider, dall'alto dei 6.500-7.000 pezzi passati, ho passato anche loro, sì, ovviamente, sì, su tuo suggerimento. Sì, loro sono distribuiti benissimo, sì, qui in Italia sono molto conosciuti, sono sicuramente in classifica da qualche parte. Sono major. Sì. Va bene, dopo arriviamo anche a un momento cruciale della tua carriera redazionale all'interno di questo programma di successo. Salutiamo Lucia da Ravenna che scrive sempre al 335 100 7777, ed è in Portogallo. Io voglio ringraziarla per la sua fedeltà. Saluta Lucia. Ciao Lucia. Ciao Lucia. Ciao. Filippo, adesso tocca a te. Sì. Siamo alla decade successiva. Siamo negli anni 70, alla fine dei 70 e La tua scelta verte su qualcosa che so che hai un po' di spiegazioni da dare al riguardo, insomma. Sì, la mia scelta verte su un gruppo americano dell'Ohio che aveva un nome altisonante, si chiamavano gli Dei, The Gods. Nonostante questo nome altisonante, invece, la loro proposta musicale è molto terrena. Low profile. È molto terra terra, perché erano un gruppo di motociclisti, degli scappati di casa letteralmente, che parlavano di viaggi sulle strade, rock and roll, birre, donne e anche quello che succedeva sotto i tavoli. Infatti questo brano che sentiremo si chiama Under the Table, e la cosa che ti farà piacere, Mox, è che i Gods erano prodotti da Don Brewer, che era il batterista di Grand Funk, che io spesso ho programmato con uno strepitoso solo dall'album On Time, che ogni volta suscita di grande entusiasmo dall'altra parte. Va bene, Phil, lo ascoltiamo. Under the Table, questi sono della la Lega in questo momento direbbe va Laura Barbù per fare una battuta così, però insomma rock and roll. Specifichiamo, Phil, questi non sono i tuoi pezzi preferiti, però tu che sei uno che ne sa a pacchi, per usare un linguaggio giovanilista, un bullo direbbe sono le prime cose che ho trovato nell'armadio, insomma primi dischi che ho trovato. Bravo. Ma in realtà erano brani come una donna così un po' modaiola che dice ma la prima cosa, in realtà è stata tre ore davanti allo specchio e dice esatto. Ma la prima cosa che ho trovato, no, erano pezzi che ridere. Sentiremo tranne uno che è una ballata più umorale, il pezzo seguente, sono tutti pezzi ad alto voltaggio, per cui mi andava di mettere queste cose. Va bene, procediamo. Ivan, tocca a te. The Gods, Under the Table. Thank you. The Gods canadesi, abbiamo detto, Phil. Oh, no, dell'Ohio. Dell'Ohio. Allora c'è un'omonimia canadese? O sbaglio? Degli anni Ottanta? No, Goddo forse si chiamavano. Erano i Goddo, sì. Goddo. C'erano dei... C'era i Gods, quelli di Uriah Heep, di Ken Hensley, sì. In cui ha suonato anche un Jethro Tull. Sì, te lo dico io. Sì. O John Glasgow, sì, credo John Glasgow. Erano di fine 60, inizio 70 quelli. Alberto mi manda un commentino sulla Serenina che voglio leggere. No, sentita la voce così sexy di Serena, ora possiamo capire perché non la mettevi in onda. Guarda, non è che io non la mettessi in onda, semplicemente non è il suo ruolo. Serena ha un lavoro come tutti gli altri. No, infatti, sono anche molto imbarazzata di Serena, sono molto timida, non riesco a parlare. E non è solo la voce, dovresti vederla, guarda, perché è veramente uno spettacolo della natura. Non è vero. Confermo al 110%. Esatto. Detto questo, continuiamo a parlare di musica perché siamo qui per questo, dico bene. Adesso toccherebbe a me, io vi lascio prendere fiato, cari collaboratori illustri, e scelgo un pezzo, uno di quei gruppi che ho sempre esposto molto volentieri, addirittura vado indietro nel tempo, le mie prime esperienze radiofoniche quando fui ospite di programmi così, diciamo alternativi, tra virgolette, in quella di Radio Popolare, programmavo brani come quello che sto per farvi ascoltare. Audrey Tentacles, spessissimo ad Easy Rider lì in incontrate, album d'esordio 1990, Pungent e Fulgent, non ho scelto quella che piace a te, Sere, di Solution, ne ho scelta un'altra che ti piacerà sicuramente, ma forse un po' meno, e forse non è detto. Comunque il brano che a me piace molto condividere con voi là fuori si intitola Kick Mac e ve lo ribeccate anche questa sera ad Easy Rider. Beh, insomma, un classico, quando subentro io, insomma, i miei amici hanno portato dell'innovazione, io invece sto un po' più sullo scontatello per quella che è la programmazione di Easy Rider. Ti piaceva essere sto pezzo? Kick sì, Mark? Sì. Preferivo di Solution, però vabbè. Lei avrebbe scelto di Solution, che comunque è un brano che ho messo più volte, infatti, anzi, ammetti di averlo sentito a Easy Rider tu, Sì, questo me l'hai fatto scoprire tu, Vedi, che bello scambio culturale che si fa. Va bene, allora, mentre io mi diverto qua con queste persone che appartengono veramente alla sfera più intima delle mie conoscenze, voglio condividere con voi i vostri messaggi. E quindi, voglio leggere un messaggio che mi ha fatto sorridere, perché dice: ehi raga, mettete qualcosa degli Iron. Allora, è un anonimo in realtà. E allora cogliamo occasione, Phil, per dirgli che innanzitutto che è sulla radio giusta, perché gli Iron sono... Ha indovinato le frequenze, ecco. E poi sei anche al momento giusto, perché Easy Rider, ok, adesso te la becchi, sentirai delle cose sicuramente interessanti, almeno lo speriamo, però da mezzanotte alle 6 del mattino avrai 6 ore solo di heavy metal, veramente. Solo di Iron Maiden. Figurati che i capostipiti di questo genere sono proprio loro, quindi rimani sveglio. No, vorrei proprio sperare che, insomma, Caravelli dedichi uno spazio di rilievo, ecco, di rilievo. Va bene, allora, Ozric, ovviamente sei anche tu sul fronte Ozric, Phil. Ozric promossi, a pieni voti, fantastici. Esatto, sì. Quindi grandi meriti di recupero anche da parte loro, ovviamente, dei Gong, degli Hawkwind, sì. I soliti punti di riferimento degli anni 70, però con grande maestria. Allora, chi è che ci scrive? Lucia dice: Serena, che effetto, dopo un po' di giorni che non sentivo Rock FM, posso confermare che Serena è molto bella. Grazie Lucia, sei troppo carina. Lucia ha avuto la fortuna di vederla. Anche Fregenhaus, Ozric di sera, dice: tutta un'altra atmosfera, e scusa la rima, benvenuto anche te. Tiziano da Livorno, Easy Rider, quale aperitivo migliore in attesa della mitica nottata che mi aspetta, cioè quella delle heavy metal ovviamente. Un abbraccio a tutti, Mox, ministro dei beni culturali. Scusate, io ogni tanto me la tiro, Demetrio. Grazie a voi. Demetrio mi dice: cos'era quel pezzo spaziale di prima? Se ti riferisci a quello appena suonato, Ozric Tentacles Kick Mac 1990. Prima ce ne sono stati altri altrettanto spaziali. C'erano i Gods, prima ancora gli Alexis on Fire. Insomma, tanta bella carne al fuoco. Grandi, ciao da Firenze, in ascolto fino alle 6. Bravo per averlo specificato, ti meriti veramente il meglio. Poi, Ozic alla radio, per di più uno dei miei pezzi preferiti. Ti prego, Mox, dimmi dove vi ritroverò, perché senza non si può. Oh, ma quante rime oggi! Come sono poetici, Andre dice: un saluto alla combricola di Easy Rider e un bacio a Serena. Un bacio anche a te. Andre va cipiano. A noi niente, scusa, ma a noi niente. Infatti, ci offendiamo un pochino, Va bene. Allora, carissimi, a chi tocca sera? Io perdo il filo perché tocca mi emoziono. Tocca a me. È come una partita a carte stasera. Sì, stasera sì. Ma. Allora, abbiamo scelto... Ecco, adesso arriviamo al punto che ha fatto svoltare un po' Serena, nel senso che Serena è arrivata a Rock FM non a caso, è arrivata con in mano delle cose da proporre, e una di queste ve la facciamo sentire adesso. Sì. Cosa è successo, sì. Serena? Nel novembre del 2006, ottobre o novembre del 2006? Nel 2006 sono venuta qui a Rock FM, ho parlato con Garavelli e gli ho proposto appunto, gli ho fatto conoscere appunto questi pezzi che io sentivo a Rainy Radio. Dicevo: ma come mai Rock FM non mette questi pezzi, che sono bellissimi? E allora lui mi ha accontentato, che lui ha ascoltato delle tue proposte e si è reso conto che Me ne è piaciuta una in particolare, di questi ragazzi che arrivano dall'Oregon, che si chiamano Cutlass. Anche questi non ho trovato una distribuzione in Europa di questa band, e quindi l'ha messa in classifica, e ho notato con molto piacere che sono arrivati al secondo posto. Tra l'altro anche Max De Rio, devo dire, l'ha messa nel locale a Rock and Roll, l'ho sentita, quindi è stato che bello. Allora, preso in considerazione. Sì, inquadriamo un po' la situazione, dopo ti farei dire, se vuoi, due parole in più sulla band. Succede questo: all'epoca il palinsesto di Rock FM non era uguale, diciamo, a quello di da un anno a questa parte, e in fascia pomeridiana c'erano delle classifiche, una di musica indipendente, di rock indipendente in generale, curata da Marco, ha preso in considerazione questo brano. Sì. Questo brano, quindi, voi teoricamente, gli ascoltatori fedeli di Rock FM, l'hanno già sentito N volte. Io spero, fatemelo sapere se l'avete sentito. Scriveteci. Esatto, sappiate che questo brano è arrivato grazie alla lungimiranza di Serena. Che guarda, che soddisfazione! Esatto. Sono troppo contento. A questo punto direi, come si intitola il brano dei Cutlass? Si intitola Somewhere in the Sky, The Hearts of the Innocence del 2006. Ok, da qualche parte nel cielo, dico sì, bene? Sì, sì. Va bene, allora facciamo riascoltare al pubblico di Rock FM questo brano che, grazie a te, insomma, è arrivato. Cutlass. Che c'è Ivan, eravamo andati di là a prendere l'acqua. Che fatica. Fila, adesso ti faccio parlare, sì, ovviamente. Beh, adesso Serena, è fiatone. Serena, grandi soddisfazioni questo brano. È piaciuto, ragazzi, non mi scrivete? Allora, dai, no, intanto c'è qualcuno che scrive. Allora, innanzitutto ringraziamo questa amica savonese che è, insomma, è una fedelissima di Easy Rider. Dice: purtroppo non potrò seguire la nottata di Rock FM perché domani dovrò alzarmi all'alba per colpa della visita del Papa. Lavoro nel bar di un centro commerciale e saremo investiti da orde di pellegrini. Aiuto. Saluta la mia omonima e tra l'altro l'altro tuo collaboratore Filippo, ricordiamo. Ciao Serena. Ecco, Serena da Savona, quindi grazie di essere con noi almeno in questa fascia oraria che insomma è opportuna. In ogni caso arriva un dilemma offerto, uno spunto offerto dall'amico romagnolo che dice: amico anonimo, cioè quello che ha scritto prima, intendeva gli Iron, quelli degli anni 60. Giusto, okay. Potrebbe essere gli Iron Butterfly, perché pensare sempre agli Iron Maiden? Giusto. Pensiamo 20 anni indietro anche. Filippo, toccherebbe a te adesso, siamo già nella terza decade, negli anni 80, e quindi siamo già fuori. Gli Iron Butterfly erano già sciolti all'epoca. Erano vecchi allora. Erano già anziani, siamo nell'83 invece adesso. Va bene, sappi che Jerry, che scrive sempre al 335-100-7777, dice: vi sto registrando. Come 20 anni fa registrai anche alcune puntate di Stereodrome con Enzo Gentile, siete grandi. Allora, il paragone con Enzo Gentile per me è come cioè come darmi veramente, non so, mi fai volare alto, ecco, diciamo, usiamo questa metafora, per cui, e credo che anche per Filippo e Serena sia una cosa assolutamente. Va bene, dai, continuiamo dopo con i messaggi. Fila, a te la parola, sì, perché c'è anche molta musica stasera. Continuiamo con la musica. Allora, io ho scelto un brano di un artista che conoscete tutti, conoscerete tutti, che è il leggendario Alice Cooper. Quindi un re del trasformismo, secondo solo a David Bowie in quanto a fama. Assolutamente. Però ci tenevo a proporvi un brano di quello che forse è l'album meno conosciuto di Alice Cooper, ma quello che forse è considerato il più bel album di Alice Cooper, o il più bel brano. Infatti siamo nell'83, era un periodo abbastanza in down perché eravamo alla vigilia del ritorno all'alcolismo di Alice Cooper, che infatti poi dopo questo album del 1983 che si chiama Dada, che è l'ultimo album uscito per Warner Brothers, sta fermo per qualche anno e poi ritornerà con un paio di album metal. E poi con il successo di Poison, Trash, insomma una rinascita. Sì, sì, esatto, una rinascita. Tutti gli artisti che hanno una carriera così lunga, così longevi, diciamo, hanno ovviamente il periodo di declino e poi per fortuna alcuni riescono a risorgere, ed è anche stato il caso a fasi alterne di Alice Cooper. Esatto. Sono contento che tu abbia scelto sto brano, perché io non lo conosco e sono molto curioso, sono incuriosito. Tu mi hai fornito veramente tanti pezzi, Filippo. Sappiate che il 40% almeno delle cose più oscure che avete sentito di Rider nell'ultimo anno e mezzo è anche merito di Filippo, veramente un ricercatore invidiabile, nonostante che sia più giovane di me, più giovane di Serena, ma con un mosso da una passione veramente degna dei più grandi collezionisti e archeologi, come usi definirti tu ogni tanto. E parlando di oscurità hai tirato fuori il, diciamo, l'aggettivo corretto, perché il brano che ci andiamo a sentire adesso, che si chiama Former Lee Warmer, è il nome di una persona. Nella canzone è il fratello di Alice Cooper, un fratello segregato in una soffitta che non ha mai visto il mondo esterno, insomma una storia, è un momento di grande spessore, diciamo introdotto da melodie molto tetre ed inquietanti, insomma io scomoderei addirittura un po' l'atmosfera alla Edgar Allan Poe, alla Charles Dickens, per descrivere l'atmosfera di questo brano. E credo che l'interpretazione di Alice Cooper sia sempre molto consona alla cosa. Allora ascoltiamo Alice Cooper, scelto da Filippo. Cooper con un'atmosfera imprevista, imprevedibile. No, in realtà di ballad ne ha fatte tante, ma questa particolarmente suggestiva. Ce la facciamo qua? Ti sei incagliata nel foglio. Faccio sempre un casino. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa riguardo questa canzone? Beh, devo dire che sei stato abbastanza esaustivo nella tua descrizione. Spero che abbiano apprezzato, perché insomma in genere gli Scooper è già in alta rotazione su Rock FM con dei classici, con Schools Out. Non con questo album, credo, che in realtà poi si trova su CD. È stato ristampato, ripeto, si chiama Dada, è del 1983 e credo che si trovi nei peggiori e nei migliori negozi di dischi, insomma, possiate trovarlo abbastanza facilmente. Sì, no, è reperibile, è ristampato, insomma, sì. È tutto. Sì, va sì, bene, sì, io se siete d'accordo, prima di passare al prossimo pezzo che è mio ed è un altro classico dei classici, oggi sto dando veramente la parte più banale di me, però sono certo di accontentarli tutti là fuori, d'altronde ognuno ha il pubblico che si merita e sono molto felice anche del riscontro che state avendo voi. Allora, ringraziamo Sixteen che dice: Serena, questo è un messaggio per te riguardo il brano dei Cutlass che è stato a lungo programmato su Rock FM. Serena, io la ricordo, mi fa un po' fatica a scrivere, ma quanto erano carine le classifiche, bellissima programmazione oggi, grazie. Allora, cara Sixteen, qua invece mi inalbero io, perché cosa vuol dire oggi? Vuol dire che gli altri giorni non è bellissima la programmazione. Ha ragione lei. Attenzione, adesso, se no adesso mi costringi a portarli tutti i giorni in onda finché la programmazione sia bella e poi insomma bisogna farli licenziare dal lavoro, devono stare sempre con me, a me piacerebbe, però insomma va bene. Fedele come sempre il notturno di Firenze dice: io ci sono tutta la notte. Questa è una notata speciale, la notturna con Garavelli e De Rieu è un consiglio assoluto. Io non ci sarò, questa sei ore è appannaggio loro, domani siamo in viaggio, ci alziamo presto anche noi. Filippo, perché tu domani che appuntamento hai? Io sono vicino all'aeroporto di Linate, dove c'è una simpatica fiera di vinile. Esatto, dalla quale ovviamente noi collezionisti ci approvvigioniamo spesso. Esatto. Poi salutiamo Ste dalla mia Sesto, perché sa che io insomma ho dei trascorsi decennali in quella città, Sesto San Giovanni. Sei sempre una certezza, mi dice, e io ci sono sempre, anche se non mi senti. Un abbraccio circolare, grazie, che ricambiamo volentieri. Poi Mauro dice: io sto registrando anche dalla prima puntata, dalla prima sera, tutte su CD. Cavolo, allora mi rivolgo a te, perché è il Mauro Archivio, è lui. Lui. Mauro Archivio è preziosissimo. Sì. Ci vediamo al concerto della Rock FM All Stars Band a Firenze. Sì, insomma, siamo prossimi alla Toscana. Già sabato prossimo saremo in Toscana. Salutiamo Anton. Splendida scelta, lo vidi dal vivo proprio quando uscì il disco e fu deludente. Invece lo scorso anno non propose nulla di nuovo, ma fece un gran concerto. Anton è un fedelissimo da Genova che sta parlando di Alice Cooper. Dello zio Alice. Dello zio Alice, va bene. Adesso invece io scomodo gli zii dalla città di Lecco. Questo è uno dei dischi di culto più amati nel mondo del progressive, ma veramente esportati da sempre, dagli anni 80 in poi ha avuto un successo esponenziale. Pensate, con un disco del 74 fatto da sei ragazzi di Lecco, all'epoca ragazzi ovviamente, adesso hanno superato abbondantemente la 55ina, però è il classico dei classici. Io in prima persona esattamente, ma molto di più che con gli Ozric Tent e col Second Decibel, mi sono fatto promotore di questa pietra miliare del rock europeo. Un biglietto per l'inferno, questa è la più classica confessione. Racconta per te

Thank you.